nomi. Canta un gucco. Io ho già fatto la visita agli occhi. Allora niente, grazie ragazzi. Va bene, cosa ti credi? Allora ci di fora. Infatti c'ho gli occhi lavora. Mia moglie mi sta rendendo la vita difficile, la mazzo adesso o dopo lui? Prima falli preparare la cena. Infatti mi gira io, hai ragione. Mi sta strangolando. Ma fatti fare un caffè a manco prima. C'è televisione, mi sta ossessionando. Luca, mamma a casa in affitto, a me la truffi che me ne vado, cazzo, così me ne piazzo 10 di antenne. A me la casetta in periferia, appena fuori. Ma vero mica, non è possibile. No, sarebbe meglio, molto meglio di qua anche. Qua lo stesso si è vincolato parecchio con lo spazio. Capito? Ma l'altro giorno, come mai non mi sentivi, Lu? Non lo so. Mi sentivo a Antonio che parlava. Ti chiamavo io e non rispondi. Cazzo. Ha detto, ho visto che faccia dall'antenna, ha detto da me e me. Che c'ha Grazioli. Ah, la Grazioli. Allora, c'ha Grazioli. Prima veniva a pigliare sera e prima mi faceva un piaceri. Non ti piace, no? Non avevo nessuno. Come mai? Dice che è una delle migliori antenne che esistono e non la vuole nessuno. Io la ci mando dei messaggi, non solo, manco ripuscia già avuto, per carità, ma è una crisi. Se abbia così internet la vendo subito, immediatamente. E infatti, secondo me non bisogna più andare in giro. Sì, e io guarda, ho già detto, dica, manco 2 ore mi dura in occhi. Ho già mandato dei messaggi che andrà a rivida, come l'ho mandato a te, a Gianni, a... ogni crisi. Ma anche io lo dico quando non nasce di nato. Ogni crisi. Ha detto, la metto sul tetto, faccio qualche video, così. Infatti, la gente la tengo sul tetto, così chi vuole vederla, chi vuole video, è pronta all'uso. Ciuria, non l'hai sentito? No, oggi non c'è entrato. Cazzo, ti mangiano, ma ne hai fatto morire. A fa chissà di dice, mamma mia. 2 ore, cazzo. Ma vi appuntamento a Londra, io dico, sono qui in Talauna, no? Nera, secca bianca. No, all'oculistica all'INAM. Perché la fanno anche alla secca bianca? E c'è l'oculistica infatti alla secca bianca. Ma lo che vuol dire che non venire ne manebre non sta du all'INAM. A parte va un'altra per i piccini a chi mi voglio. Siccome da vicino non vedo più bene, allora devo fare la visita per prescrivermi gli occhiali nuovi. Ava invece un altro zocco mi ha subapparato Altre Grazioli Quello di dinati di piccetti che devo dire io, cazzo, finisce in 2 o 3 di Grazioli. Ti puoi immaginare. Tu pensa, manco le lenti esistono qua a Sassari, bisogna le fare ordinare da fuori. Infatti mi ne so più di mendi. Perché io sono astigmatico ipermetrope e ci vogliono, non è che puoi pigliare di PCT di cacciapi in ugna rugono, devi prescriverli l'oculista e poi l'ottico deve ordinare le lenti, la montatura ce l'ho, ma le lenti cazzo le devono far arrivare da fuori. Davvero allora che, davvero me, no. Non mi massacri da che devo comprare la Grazioli, Sì, ma i virus ti massacrano ugualmente, costano un sacco di soldi gli occhialini, infatti mi riso godimenti. Forse mi tocca un contributo per gli occhiali, io penso, perché io sono invalido e mi dovrebbe toccare. Ma va, è un casino, un casino soffrendo in sanità, o Iuia, pure per noi che abbiamo i diritti. Io ho la legge 104 pure, e dovrebbe toccarmi un contributo per, se devo pigliarmi gli occhiali invece di pagarli, intanto li pago un quanto. Quello sì. Fino adesso mi raggio sempre con paradio i PCT e ho già pagato un pacco di dinamici. Però adesso vediamo un po'. Sennò ogni volta gli amiguccia. Adesso mi si è abbassata la vista, la vicino, le cose piccole piccole non le vedo. Esempio di uomo innamorato? È brutto. Così. Adesso vediamo. E poi avrei gli occhiali da lontano e poi quelli da vicino, ne dirà le due immagini ma frutta. Cazzo, allora vediamo se riesce a farmene un paio progressivi, cioè averne un paio solo, sia da lontano che da vicino. Quelle costeranno parecchio. Adesso mi faccio fare l'impegnativa e vediamo un po'. Al limite giusto che la fanno alla stecca bianca proprio. Avaro dico a una bassona appena vaggio l'impegnativa in mano, sennò magari non c'è purubu. Ma chi barada che non ha già avuto. Ma andrà a pagamento, 270 euro. Per domani le vedete buttare io di nariz. Ma le date la legge e tutto. Hai visto? Quando si paga te la se ne buono legge sto in due lì. A me mi l'ha dato subito, non ci pagato nulla oggi. Però tutti non può essere indinariti come te. Hai capito, caro Ciurio? E allora? Dove sei studente a Taio? Da voi 10 anni che sono in carica con loro. Ma te mai? Dove sei studente oggi? Mi hanno telefonato, dice domani vengo a ritirare il referto dalle 11 alle 14. E così può anche pagare direttamente. Allora, facci dalla signorina di ditemi, tu non arrivo manco vedevi di nami. No, la poi dici che è corrotto. Questo non lo so, se vuoi la signorina o se mi dia Edo, cosa ne so? Questo è da vedersi. Io so che mi ha telefonato Edo da voi. No, sì, facci dalla signorina, in modo che tu non puoi dire che la di a Edo. Ma poi a Cerebiglia è dalla cua, ma la giusti. Vabbè, intanto io ti dico, fammi la fattura intanto, prima di tutto. Signoria. E perché ancora non c'è fattura? Tu dovevi dire che non ne vuoi fattura, manco no. Manco pagabili manco. Io non credo, no, assolutamente. No, fa cosa straordinaria che andare a ripilare, compreso. E dobbiamo solo una percentuale, un 20%. Ah, non si becca tutti lui? No, è una visita fatta in ospedale, no? Lui magari ha fatto gli straordinari, ma che l'ha fatta di tutti. Per cui, poi me l'aveva detto. Perché ha detto, ma quando mai una visita bisogna pagare così tanto? E sai, guardi, a me mi danno solo il 20%, tutto il resto è l'ospedale. Perché l'hai fatta in ospedale, vuol dire che l'ospedale vuole la percentuale, buzzinosi, tutti magnani, a quattro ganacci. Ma ganacci a meno, qui ci sono ganacci, brutto, ganacci. Adesso che vergogna. E ancora niente, aspetta, arriverà il giorno che non ti danno più niente, nemmeno una pastiglia gratis. Già so già come intendi, allora devo fare tutti gli sanali di sangue per la visita diabetologica e quelle mi toccherà pagarle. Se non fanno come l'altra volta, che i primi cinque non pagano, quelli esenti, gli altri hanno pagato tutti l'altra volta. A me li hanno fatti pagare a te. Già lo grido. A proposito di fatica, aspetta che mi sono dimenticato che devo prendere la capsula, vai, aspetta, che devo scendere, mi assento che devo prendere una pastiglia, ci sentiamo più dopo magari, dai. Ok, vai. Luca! Allora devo fare, chi si va la cardiologa? E chi si paradiabetologa, allora me li posso fare tutti impari e via. che cosa ci vuoi fare? A proposito, Natalino, gli occhiali progressivi 800 euro vuole buttare, se puoi immaginare. Io quelle che ho da lontano le ho pagate, sia quella per lontano che per da vicino, 130 euro. Vabbè, io li pago molto perché sono astigmatico e ipermetropo, e quindi costano un sacco le lenti per i miei occhiali. Contatture ne ho due nuove, figurati. Le lenti che costano, poi tocca farle arrivare da fuori, fatte apposta, perché non ne hanno gli ottici qua, a meno che non sia cambiata la tiritera dall'ultima volta che li ha fatti. Adesso vediamo, mi faccio tornare a visitare e me li faccio prescrivere gli occhiali, perché da vicino non vedo più un cavolo. Ok, e poi tra l'altro da lontano non ne avrei nemmeno bisogno, non avrei, ma da vicino sì, da vicino è logico, devo, se non posso leggere, a meno che non mi metto la scrittura a un metro di distanza, allora sì, ma da vicino proprio non leggo, mentre invece dalla lontananza, volendo, infatti non li uso, non li ho ancora usati, li ho provati e basta, perché intanto mi pongo i PC e non c'è nessuna differenza, cioè, nonostante che, perché vedo in lontananza, vedo abbastanza bene, no? Non c'è problema. Vabbè, dai, scendo a prendere questa pastiglia, se non mi ritorno a dimenticare, dai, a dopo. Via. A dopo. Purtroppo, cazzo, mi sono usci. Devo trattarli sia da vicino che da lontano. Cazzo, la fatica, mi devo comprendere affari, lui. Cazzo, non riuscivo a leggere per compilare di quanto era scritto articola la cosa, la fanguarla. Li ho visto, non me la risulta, non l'hanno mai... Ogni cosa fanno le soluzioni, invece per la vista mi sa che sono occhiali. No, per la vita se ti vai a operare, sì, però operare, qui c'è un bel di là, grazie, si mica di rubarsene. Ma non si può operare tutto, cioè, nel senso della vista. Eia, anche gli astigmatici, dice, ti cambiano il cristallino, me pare, di bonini, e vedi, torna bene. Ho fatto passi da gigante, ma cazzo, chissà quanto più fa operati in di là. E cannati tutti i cittadini. Arratti. Visto che li vuole tutti in pari. Ho capito un prestito minimo. Ma bello grosso. A bisogno che mi pare sia 5.000 euro a occhio vogliono. Ma che occhio vuole lasciare fare? Te credo. E commenti. Guardi, mi dice giù c'è chi da farli pagare 270 euro. Cesso, cazzo. Perché lui è sborone, è andato lì, capito? È andato lì, aiuta, su, poi devi capire se stavi mi aggiungendo. Vuol dire che non venire nei lunghi. Se non per la base, sì, non andi a pagamento, un bel di visiti, non ti rifà, ah, vedrai, mi toccherà pagare a me, mi paghi sa DAC. Perché non bisogna prenderla sotto gamba, che io ho un aneurisma e bisogna controllarla ogni 6 mesi. A chi si copia chissà, chiudo la bottega, non ha compreso. La salute, la sanità ci sta mettendo purtroppo, non viene più da di noi. E cosa vuoi venire a tutti? Cosa vuoi venire a tutti? E devo cercare per forza di farmela fare questo attacco. Adesso che c'ho questa aneurisma che è grossa quanto una palla da tennis, mi hanno detto, figurati, la cardiologa a chi cosa di qui, me l'ha detto, e devo fare delle tacche, ma non ho trovato posti ancora, dottore, mi dispiace, lo so che la devo controllare, ogni 6 mesi la devo controllare. Ed è controllata, pensava. Giulio, lo posti giovane che dà somiglia di Basigli e poi che è l'estero. Ci ne dimenticate evidentemente, succede anche a me. Non te ne devi dimenticare. Allora, domani devo controllarmi d'ora la pressione, a vedi si è stabile. Manco male che è giunto Franco Gatta a accompagnarmi oggi, se no gli avevo bigliata Avona. L'altra volta già me ne sono tornato da solo, ma chissà voi che non vedi un tubo proprio, ha bagliato di brutto, ma la luce mi dava un bel fastidio, perché mi hanno messo quelle gocce per dilatare la pupilla. Due visite ho fatto oggi. La troppina dalle bocce, no? Marita deve essere la bottente, due volte me le hanno messe queste gocce, una per una visita e una ballata, infatti ha giovato un bel taglio. Manco male che è finita e va, e garea va, e c'è, vedi, sarà mezz'ia. Dimmi, a rompimi per bere i cazzoli. Pubblicità. Adesso mia moglie mi ha fatto il caffè e se n'è andata a portare il cane, almeno quello mi ha fatto. Allora tu sarai a Nacciale. Cazzo, se la Nacciale già non entra in obbino. Oh, ti minaccia che non ti faccio vedere un cane da voi, balla. E vedi, ti ricatta che... E mantenimento subito. Penso di... E ti c'è culo in carriera, buu. Chi ci scudi in carriera, Buru? Io sono Vaiduccio, mia, che la casa la sua non è la mia. E mi andando in campagna. Magari fosse impossibile, lì già non mi disturbava nessuno, Solo che non ce la faccio più a fare Tarzan, alle gare di Puglia. Ma un carrellato di buoni, tiri su, tiri giù, da. Mi sa tanto, un mezzo draliccio con un carrello, col motore elettrico, usato, antenne e tutto. Cosa vuoi, arrampicarti all'Aiburi o... Infatti, non mi furrà, dai. Allora, la bottura non mi ruso, ti cara. È vero che... Devi fare i bagagli che siamo andati in campagna, che sei libero come un fringuello. Ma sei su cane quanto è contento. Vedi scorrazza davvero. Giulio, ma la farmacia del Cittamercato si è andato a pigliarsi a bacchiglia. Spera un attimo che c'è gente, Luca. Giulio. Allora, già ci sei già. Sì, Giulio è andato a Cittamercato, la farmacia, a comprare. Forse la sua Fabrighendi, la capsula. Di lui abbiamo la capsula. Sì, chi c'è dello shuttle, devo essere. Regalevo, non lo so. Mi hanno mandato una foto a Bonorva, una manto qua turbo. Cos'è, vendendi si ragiona? No, mi hanno mandato una foto di un conoscente che è a Bonorva e mi ha mandato la foto di un'antenna sopra, di una mantova turbo. Ho detto, e che è a Bonorva? Non lo so. Ma noi mi pare il cardiagoso. Carlo. Già lo so che c'hanno la casa anche lì, ma non so se c'ha un'antenna. Non lo so manco io. stamattina lo sai quanto ce l'avevo la glicemia? A 150. Sì, a 200. A 85 ce l'avevo. Non è nulla. Lo so che non è nulla. Soprattutto, ma ce l'avevo bassa. C'è festa Bonorba. Il carro, c'è il carro. Giulio! Cazzo, un altro assenteista. Giulio! Ma vedo che Eddo da voi si lamenta. Capito? Eddo si lamenta da voi. Che Manzano ha fatto l'assenteista come a stessi. Sì, magari era impignato il Manzano. Tu sai che deve timbrare un cartellino, no? Sì. Nessuno non ha mai timbrato un cartellino, che era sempre a conto Zuio. E allora, gli anni d'oro. Vero. Siliana Retino vince a Trieste, durata un po' di mattina la riesumazione della Forza. A Manzano Ghizzo tornava a notte d'Asia a casa sua. E allora, di nato si buttava con un motocarro a casa, non hai compreso? E allora, nello cascione? E ribaltava a burro. E allora, si puniva davanti alla Ianna e ribaltava. Ma cosa si è fatto a casa a quattro piani, secondo te? E io si dava la sudata, poveraccio, altro che noi. E noi mai raddui a porca miseria. Ehi, tanti genebesi hanno i romanzano, i politici, beh, oggi mettiamo la tassa che ha la prima casa, seconda casa, terza casa, mi date un nome e tutti magani. Infatti, è proprio vero, non è mai la doia, ragazzi. Viene Giulia che dopo le critiche... Hai di pagare sempre la tangente a Eddi. Esatto, c'è tangente proprio. Senza contare ogni acconciamento da voi che devi fare. Lui non ti rimborsa di nulla, sì, domani. Però ti dici, beh, stamattina ci siamo svegliati e chiamiamo una tassa così. Da oggi, popolo, pagate questa tassa per la casa. Una volta la giudicata uno di pura. Chi si pagava la tassa e no chi va a casa. Ecco, la tassa. Ah, nel paese nostro, quello che è nostro e non paghiamo nulla pure. Un albanese, mi. Macco macco. Se siamo macchi noi che paghiamo la tassa al governo. È vero. È vero, però vedi, almeno si stanno svegliando, va, fa cosa se mi arrivi agli sgoccioli in brucchio, con l'agricoltura e tutte le cose. Avvino, pure a questo d'ora si offende un casino, che o so, Ulpia, buh. E, però, pensando, non ci vedi negli sgoccioli, no, fate indifferenti, guarda. Infatti. Come quando tu vai a ti pare che... Ma ti cambia proprio la vita. Secondo me non dobbiamo entrare in Europa. Mi trovo in Inghilterra, macchi, mi sono ragazzi la sterlina e l'euro. Testa alta, e da poi se ne sono andati di riduzzo dall'Europa. Ma è un preso. Così, allora, no, ormai noi possiamo solo peggiorare. Solo in degrado se mandando e boh, vai, ho venuto e va. È inutile, se no tu rammendaredo o fanno qualche cosa, qualche modifica. Perché queste leggi erano troppo restrittive. Sì, che agricoltori e allevatori, durati si dovevano rampare, non potevano produrre più di un cotto di latte, se no li punivano nella mucca. Dimmi tu se andare se una cosa aiuta. Che colpa ne hanno? Muggere devono quelli, boh, non l'hanno preso. Ma no, proprio non ne devono produrre, se no gli mettono la multa. Vedi che tu danti un'isba, a chi lo devi ripigliare dalla paesi rurati. Ma dimmi tu, è una cosa che non esiste. Ma infatti ne abbiamo in abbondanza, boh, e dobbiamo, siamo costretti a prenderlo da fuori, boh, dall'estero. Boh, giù un po' di questa cosa, oh, io. si raggarri, con tanta garri che avemmo, cazzo, noi siamo arrivati all'Olanda, che andava un amico mio, via autotrenista a pigliare la garri. Dimmi tu, si dovevamo mangiare la garri di altri paesi, non lo so io. Fate che la nostra poi va fuori, cioè, controsenso. E allora, prova in continente in ristorante a vedere se lo conosci nel ragnone saggio. Se non è saggio, lo conosci subito, gatta, e ti dico di raccambo. È vero. Non ci potevamo far nulla. Con la crisi che c'è siamo costretti a comprare da fuori, perché costa di meno, anche la roba non c'è, costa di più, boh. Stabilità a tutte le nostre regioni. Io finché posso compro sempre roba di qua. Il basso adriatico, lo ionio. Manco dello macellaggio di bue più fila. Isso sì. Vediamo scuotere anche le tempi. E comunque anche le macellerie stanno non facendo la fame, ma quasi, perché ormai la gente, io mi ricordo anche qua giù, no? Questa di qua giù, qua dietro, le porte. Tu andavi il sabato, se non andavi all'apertura, non riuscì a davanti lo sabato, un deserto, biudi, la ciappi biudi, cioè non. Tu a fare un maccato di noghi, che ti devi capare a risa. E anche, vedi, ma chissà la cosa, Ma ti so cariche sangue, ma cosa ti so prendi pagare l'affitto a Richelli da Massardo, il comune, non hai compreso? Sì, come ha fatto fine Corte Santa Maria. Vedrai che avrai i negozi li occupano i nigeriani. Ma cosa vuoi che ti dica? In via Giovanni Pascoli, il Matteo non è serrato questo, il Matteo. Anche lì erano comunitari, a chi era vicino, a Baida. E quello era grande lo stesso, lo parcheggio, non lo so perché. Forse questione di affitto, come questo di qua. Questo che c'era qua, la Sisa, va via un sacco di debiti, ma se tu lo vedi avanti, buone le mani in capo, un degrado, la porta addirittura te la devi aprire tu, prima per la porta scorrevo, se apri l'azzurra quando arrivi, avanti la devi aprire tu, e per pure un gacello, cioè è un drento, è diventato, per carità, qua, non si sa come ti manco, rabbisco. Sì, non dura assai. Tutti che si sa sono tutti da re. Ma il cavo è Carrefour, non hai compreso? Non hanno mai giambato i mattonelli in 50 anni che esiste il barazzo, mai rinnovato i suoi negozi, mai ne ho fatto nulla di che. Ti devi aprire a mano una porta scorrevole automatica, e per un cartello che la devi aprire a mano, penso tu non vanno manco di nabba, faccia male la manutenzione. Isso che vergogna, chi sta sopravvivendo? La Conad, la CRAI, meno male quelli stanno andando avanti. Già ho visto. E vabbè, poi ci sono questi Ruspi, Lidl, che hanno ammazzato a tutti comunque, anche a questi, perché sì, la gente ci va a Conad, ma non di certo andare a farsi carrelli e carrelli di pesa come ti andano alle Ruspi, sì che la colpa è anche di quelli. Gli all'Eurospini hanno attaccato la Grecia, gatto, e ripresi sono atti burinchini e la roba non sirvi. E anche lì, infatti, hanno visto l'andazzo, no? E Giulio, mi vuoi entrare? Vediamo un po' se entra, mi assento un po', vediamo un po'. Oia. Sentitela, Luca, cosa, mi sta minacciando. Devi, abbiamo la macchinatina in campagna con Lugani. Ma la gente non sarà contento con Gani in campagna? Oh yeah! Tutte le dipolite ma cinghieggia. Ma ci voglio un pastore tedesco, ci avevo in campagna, quanto era bello quel cane. Oh, come è durato, a chi si dirazza così durano in poco, ma era giusto. Lugani ci aveva in campagna, o in cortile. quello girava, cazzo, addirittura poi si incinta un'altra cagna della razza sua, stesso che era di un amico mio, decido la campagna, era ingravidata subito e poi che la veda i sagani. Ma quanti ettari è quella campagna? Un ettaro è qualcosa, è più di un ettaro. Ma cosa c'è? Oliva c'è, guarda te. È di tutto vera, brutta, vera. Mi domanda Luca Manicomio, dica chi vera in campagna, si ribiazziano. Già, vabbè, ci sono venuto una volta. Adesso la sta curando tuo fratello, così. Ci sono due miei fratelli, la casa dove stavo io l'ho affittata a mio nipote. L'ho affittata perché io non ci vado, perché se no mi tocca bisticciare con gli altri due. E per bisticciare è meglio starsi calmi. Bisticciare, tanto per le famiglie ebreane, mica se ne andano di casa. Ognuno va per la sua strada, io vado nell'ingresso mio, di casa, tu vai tu. Sì, ma è tutto un ingresso in Chivi. Come un ingresso? Nel cancello o nella casa? No, del cancello. Ogni casa c'ha il suo ingresso, no? E appunto, se che siete indipendenti, no? Cosa pensa? Sì, ma specialmente Rumirori rompere balle non fa, mi tocca mettergli le mani addosso. Vabbè. Se usci allora è meglio evitare. E poi il casino lì, cazzo, ogni voce va a pigliare solo urbani, dici in macchina baffuzza. Invece bene o male qua c'hai tutto vicino e la comodità è quella. Sì, infatti, ti dà pure un pigliare urbani, ti dovisci in macchina, ti dovisci qualsiasi cosa. Addirittura avevo fatto la centralina io per la bombola, no, c'avevo due bombole, quando vieni una andavo e pigliavo l'altra, ed era mi pura di bombole, avevo fatto la centralina ma quindi le attaccavo tutte e due, no, quando vieni a una attaccavo l'altra e andavo a pigliarmi subito l'altra bombola. Sì. Il divertimento c'era, no? Con le antenne, ascoltare, eccetera. Sì, in Chivu di va tutto. Qui ancora l'antenna multibanda, il dipolo multibanda che avevo fatto, gatto, che era una bomba il suo dipolo. E c'è ancora lì, cosa avevo? La Mantova 5, varie antenne, VU, c'è la X300 sopra. 500-700. Cazzo. Una direttiva per VHF, normalmente quanti elementi è? Un bel longa è. Insomma, te ne sei andato e è mullato tutto proprio. Sì, è tutto giù mullato. C'è anche il dipolo sopra dove c'è l'antenna per 27555, che avevo fatto un dipolo, ma con quello lì avevo collegato uno che era a Capri, sopra la barca. E ho parlato con questo qui di Capri, figurati. Che pizza. Ma la manca la pizzimenta ha fatto belli a tirani. Per una. Sentirsi di nuovo. Lo era Ariola. Oh signor. Il controllo dell'udito. E come mai non hai mai deciso di andare a prenderti tutta la tua roba, Natale? Proprio così, ti sei andato. Sempre me la mettevo. Mica posso piazzare una manto, ma se non vi puoi piazzare un'altra la camiciuria ai nomi. Cosa vai? La X300 che ce ne sarà frasica, la Mantova 5 sarà frasica, Roma stessi, cosa? La Samo Verde, c'è la G5 RV avevo fatto, ne avevo messo il simmetrizzatore, ma bella fatta, in 80 metri, fondo scala arrivava la gente. Sì, ecco i regalalli, all'epoca già ce n'era di gente che a darle, piuttosto che lasciarle morire lì. Sì, cosa, avevo altre cose da pensare, che mi dovevo buio, va, insomma, già ne avevo di cose di va. Cazzo, Samantova, quando io me ne sono andato da campagna, Due mesi ci aveva. Era appena stata piazzata quella lì. Ha preso e deciso di andare, di venire in centro così da un giorno all'altro, in pratica. No, perché mi stavano rompendo le scatole, se no non me ne sarei mai andato da lì io. Tu allora non hai compreso. Me ne sono andato perché mi hanno rotto le scatole veramente. Cazzo, ultimamente per poco sono arrivato alle mani con mio fratello, che c'era anche mia moglie lì. Cazzo, mai da voi, oh, ha fatti a fradelli. Infatti, cancellati. Sono cancellati, manco da morti li tolgo dal libro nero. E a tuo nipote invece lo vogliono, oppure anche con lui ci sono problemi. Cazzo, già di fin di. Si rompi nelle balle, basta Cudi Liga che vedo pugni a bocca. L'orrore sarebbe durato, pensate. Io per non andare in galera, perché io sono pure armato, cazzo. Potevo anche fare qualche trontata, è meglio che me ne sia andato. Se c'era una vita lì lo stesso, no? Tutta la vita, perché una volta ero fidanzato io con questa qui, mi ero lasciato quando abitavo in casa di mamma, e quando mi ero ragazzi, come ti erano affezionati a questa qui, io c'ero già 10 anni con questa. Ma lì tu mi, una ne entrata, non entra né più, allora giubilato riferri e me ne sono andato in campagna a vivere da solo. E meno male che avevi questa casa qui, davvero, se no è stato sempre briendi. Allora per non bisticciare con mamma me ne sono andato in campagna e stavo lì. 10 giorni, l'orrore, gli altari della miccia, si consuma in giro. Oh, non vero mai, ero sempre in giro, mi. Tanti dubbi, gli inquirenti si muovono per... Andavo sulla drumia a magnacchi. Due volte manca a dormire perché da rudimissimento direttamente a travagliare, entrava alle 4 di manzano, io a travagliare a fatti un gol. Lavoravi con tuo padre, come ho detto, i fratelli, così? Ecco, c'era Angelo che lavora a Lumizzano, là. L'altro non ha mai voluto sapere. Infatti se qui vado in questo gorra, chi so fare l'ubicatore. E gli altri due vanno d'accordo, i fratelli, sì. A un altro ne ho solo, due. Beh, Angelo e Mario. Ah, va, a chi tu l'ha giusto andare a faccia ammazzare al telefono con l'altro, vedo, vedere in chi vivo. Cazzo, ma mica i noghi, mica cosa mi ha fatto se i noghi, mi avete abbandonato, non ve ne siete resi conto, mi avete abbandonato tutti. Andate a fanculo, a giudizio. Perché c'è Angelo in campagna solo? No, Angelo e Mario, tutti e due abitano lì. E c'è mio nipote, no? Ci sono ancora troppi buchi neri. Nel giardino di quella villetta. Sai che tu proprio l'ha giunto andare a fame e può andare pure a farsi ammazzare, che mi aveva detto mio padre che l'era giunto un diabete a Ruminaori, no? Una volta era giunto un infarto. Nessuno ha visto nulla. E poi l'intera massa da sé. Chi su gli anni fa si ha ridotto a rendarismo, non ti preoccupare. Ma questo tuo nipote che è uno dei figli dei tuoi fratelli, di quelli che abitano lì stesso? Ehi, il figlio da Bresano, il diavolo, ma... Oia, senza le moglie che subito rugane, ma ha bisciuto, mi crusino a suonata, bella, si va intesa. Giulio! Oh, Giulio, si sarà rimasto giù? Al calduccio, ma no. E allora? Cazzo, c'era uno, mi ha mandato un messaggio su Messenger, a vedere quanto davo solo il Colt. Perché avevo messo il Colt col 747, no? E secondo Edu, chissà che a differenza di Vanden, risolo lo, c'è un apparato. Quelli cazzo sono belli, amici. Dei camionisti, cazzo, non sai che ho trovato a Predaneda ieri, a Pinguino, cazzo, guidando un trattore, ragazzo, un articolato, va bene. Ma no, un Volvo nuovo c'ha. E prima lo vedevo sempre qua al latte dolce, portava la cisterna dell'acqua. No, adesso sta portando l'articolato. Beri grigi, va via. Già, me lo ricordo, Antonio, sì. A capire se ci sono... È invitato parecchio. Racconti le testimonianze. Tu vai a Miron, Guira, io non le riconoscendi. Verrà qui tu, Antonio Pinguino, che ha scritto nel trattore. E mi sono avvicinato per quello a vedere se era lui. E subito mi ha conosciuto. Io me lo ricordo quando portava l'acqua, che abitavano qua, a Latte Dolce abitavano. Ha avuto sempre ammazione da minori, isso. Giovanni Barrega. Ed è bravo, mi. Potendo l'articolato, è bravo, ha fatto una manovra veramente di lusso a mettersi in posizione di scarico. E già col padre però viaggiavano con le cisterne dell'acqua. E io lo so. Ha avuto sempre ammazione da minore, andava a Guruvabo, imparava a Guruvabo, andava, conosceva Guruvabo, lui. Era sposato con la figlia di Aquila di Gnogno, lui. Vero. E io non lo so, così fai, un chissà, mi pare che era da caldo. Che sono pieno di 5 anni. Boh, in radio non c'è più entrato. Ah, infatti non è antenna sul trattore. Non... Lei sta bene a 44 anni. Io adesso sono un po' di anni senza vedere Alessandro. Prima lo vedevo perché è lo zio del marito di mia cugina. E siccome abitano nella stessa via in campagna, è dove vedi un passeggente. Alessandro. E va via ultimamente un motocarro e fa via di Tre Pucci, ma di su di Flor Garden, quello che c'è vicino al cimitero, l'ho visto lì. Ma lui in pensione da un bel. Non so, i fratelli si hanno ancora l'autotrasporti, che ci lavorava Fabio, mio fratello, lì, per la 2P. E infatti, veramente fa via nei corrieri, li bradetti. Ci lavorava anche Angelo, te lo ricordi? Fabio, che ci avevano anche cosa va Paccani al prato comunale. Fanno si piange la diluzione, sì, sì. Si dichiarano innocenti. Cazzo, che vecchi ricordi, è un anno i tacciuri. Allora, ma io capo... Però come l'hanno trasformato l'emiciclo, che brutto che è adesso, no? Indiamo amichezza le cose di dice. Tutti i negozi hanno fatto andare a mare, da quando una nica va di Bruma, da Chivi. Qui nella nostra abitazione. Da niente arrivi da altre parti. Prima c'era un fulma, cazzo, poco indiani che sui barghi veramente via l'emiciclo. Come te ne cavato di bulma sono andati tutti in affanguaglia. Bella come piazza, là, sì, però non è più come prima, frequentata veramente come prima. Non è frequentata, no, ma cosa non arrivi nei biondini? È un casino a circolare in macchina a Burgo, pieno di vigili, Gesù Maria. E comunque andrebbero a collocare questa coppia proprio. Un macello, Hanno fatto dei parcheggi sotterranei, lì, se non sbaglio. Ha dichiarato che... Sì, come l'altra piazza, lo stesso. Sì, il coso, inizia che per ridinare il pila di bici. Che ci vuoi fare? Beh, c'è di migliorare. Su per giù rendere i cosi. Pinguino, nulla di strano. Alessandro, che? Io vado a che stava nessuno. Neanche a cosa gli avevo detto, ma perché non te lo rimetto il baracchino, Angelo Cerchione? Manca è dove mi ha fatto un po' di anni che. Ma Angelo sempre il corriere sta facendo. Non lo so, non lo so. E sta niente, abbiamo messo di vista. Il nord di Palermo è sconvolto. Quando non so più entrare al baracchino è un caso. Casino era prima, divertimento a Gugu. Sì, prima sì. Era pieno di antichi canali che. Se ne può il cellulare, la gente si compagia la baracchina. A me il cellulare fanno voluto. Cosa c'è? Cosa c'è? Giura che cosa è sul gas? Picchiando si fa col giornale. Meno 725, vabbè, 911, la cattura è tutto. 300 euro. 911. 7 325, cos'hai? Clicco. Nulla. Ah, come il mio. No, la scatto di tutto. Quelli sono belli. Peccato che non vanno con processore. La fa vedere. Fallo un buon pa' che c'è la più infatti dimenticata, orata lì. Falli il cosmone e falli. Se non vedo più nulla per saldare, gatta. Ah, mi mancano gli spinotti ma collegare i gabi di rugoso, no? A chi uno anda all'entrata e l'altra discida, così è. Ma se ti l'ho già mandato la foto, te l'ho detto, te li ho preparati anche, gli spinotti. Ti ho detto, ti do i due jack col capo, con un pezzo di capo e ti fai i collegamenti. Se oggi stai dicendo, ma regga la radio, ti posso tutti i nomi direttamente, te la faccio sentire e ti si butti tutto pronto. E invece non hai voluto due, cosa vuoi ti dica? Se ero impegnato, Luca, ma hai visto che ero impegnato, cazzo, oggi non mi attesti. Ma devo farmi un cazzo di l'analisi, ohia. Molto, molto sentito. Ma hai visto stamattina non c'ero tutto il giorno. Cando di viaggio, io te l'ho detto l'altra volta, potevi portarlo l'altro giorno e da voi passavi la di da voi ti umiliavi, pronto. Sì, infatti non. Bisogna c'è più 5 minuti di dentro. Però definirei un predatore, manipola la loro mente senza per portare. Questo non le devo mettere. Domani stanno a parte. Aspetta un attimo che guardo. È un vero. Ah, tu là. Sì, chi ci raggio? Giulio ci ha abbandonato, Luca. Ma io non so questa capsula se era per via orale o cosa. Infatti, bisogna vedere che paga via Ila, se va via rettale, via male, boh. Che mi sia piaciuto e se ne è pigliando un'altra. Secondo paga via Ila, magari le è piaciuto pure, mi. E non riesci manco a fare il cane, va. Mi dici, si intendi dietro, si fa di nuovi nuovi. Mi sciolì di buoni, di giù. Magari sa poi c'è l'occhiali e ha leggito mari, capito? Invece orale, chissà se ha leggito. Deve essere non va via l'occhiali. Magari se poi c'è buono di traverso. Se si ne può fare il traverso è l'offia la situazione. E poi se non riesce a caricare. Ma che? Non ventra, Non accetta provocazioni, deve essere. Allora, è entrato Gianni, ha detto la messa, e non può entrare più. La fatica quando mi ha detto che era cantante, ha detto, tu in questura devi andare a cantare. E ormai anche lui ha preso un'altra passione, come tanti, ha mollato la radio. Ha preso questa passione del canto e sai che ci vuoi fare? La radio si vira la passione, la coltivi, non entra nulla dal telefono, la